venate a cori, che ci sta tutto. Tutto de bello e niente de brutto. Aria, salute. Aiutatemi a dire, non ci credite, venate a sentire.